mondo. YouTube Social Village di Marta Cagnola. Eccoci ragazzi, non avete idea delle cose bellissime che ho visto in queste ore nel posto in cui mi trovo. Chi è stato attento la settimana scorsa lo sa che oggi siamo in diretta da Vicenza Oro. Dunque io prima ho fatto la scaletta in fretta e furia prima di venire a Vicenza, perché volevo appena arrivata andare a vedere. No, non avete idea di i miei occhi sono pieni di cose tutte luccicanti, che cose belle ho visto. Ma adesso facciamo le persone serie, perché abbiamo due ore di diretta davanti a noi, qui ovviamente da Vicenza Oro. Allora, due ore con RadioTube, Social Village e Social Network. Come sempre la prima ora, quella di Social Village, con un sacco di spettacoli, e parleremo ovviamente del Festival di Sanremo, perché ieri abbiamo seguito tutte le canzoni in anteprima, sappiamo già tutto, vi sveliamo già tutto. Parleremo anche un pochino di cinema, senza togliere il lavoro alla Rosa Purpurea, ma parleremo già un po' di Oscar e incontreremo un protagonista della musica piuttosto misterioso ma estremamente importante. Poi ci sarà la seconda ora, quella di RadioTube Social Network, tutta l'attualità della rete e dalla rete. Parleremo di una settimana, di tante cose che sono passate attraverso i social network, attraverso i video più condivisi sui social e sulle pagine online dei giornali. 349-238-6666, come sempre vi chiedo la cortesia, quando io sono in trasferta sono più comoda a leggere gli sms che WhatsApp, quindi mandatemi sms, oppure ci sono i miei social, chiocciola Marta Cagnola, sia su Twitter che su Instagram, soprattutto Instagram per le stories, perché oggi mi sto veramente divertendo, mi sto veramente sbizzarrendo senza nessuna vergogna. Vabbè, non importa. Cominciamo con il nostro RadioTube Social Village. Allora io comincerei in musica facendo un passetto indietro. Volevi solo soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco, te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. Che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità, venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà, mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Come se allora avete imparato a battere le mani a tempo in un anno di Mahmood e di soldi. C'è Luigi Speciale che ride. Oh, ma era una cosa difficile, mica tutti hanno imparato subito a fare il battimano in tempo. Allora, l'anno scorso Sanremo era finito così ed è andato veramente benissimo per Mahmood. In pochi l'avevano indovinato subito come possibile vincitore. Io questo merito me lo attesto, perché io prevedo solo i vincitori quando sono molto difficili. Cioè in questi anni ho indovinato solo Mahmood e Gabbani. Per il resto non fatemi fare previsioni, perché non sono bravissima e nemmeno quest'anno vi so dire chi potrà vincere Sanremo. Un sacco di amici che me lo chiedono anche per andare a fare le scommesse, non ve lo dico, anche perché non ho idea. Quest'anno secondo me ci sono molti cavalli che partono così appaiati, ma noi abbiamo due riti. Un rito è quello di ascoltare in anteprima tutte le canzoni del festival. Come facciamo? Beh, ogni anno la stampa viene invitata a questi ascolti in anteprima, tutti i giornalisti vengono chiusi a chiave in una stanza e si ascoltano tutte le canzoni una dopo l'altra. Il secondo rito è quello di parlarne il giorno dopo con un nostro amico, con un amico di RadioTube che è Paolo Giordano, critico musicale del giornale. Bentornato Paolo! Eccomi, eccomi, buongiorno, buongiorno, buongiorno Marta. Allora, Allora, io ho qua il tuo titolo del giornale di oggi, cartaceo, senti qua il rumore della carta. Sanremo a 100 all'ora nei brani in gara, trionfano Famiglia e Ritmo. Allora, abbiamo da una parte i testi e da una parte appunto la musica, i ritmi. Beh, è un Sanremo in cui si ballerà tantissimo, Paolo. Ma sì, senz'altro non ci sono mai state così poche ballad dentro il insomma il cast del Festival di Sanremo, e questo è un dato abbastanza in linea con quello che stiamo ascoltando, e ci sono anche tanti pezzi che fanno ballare, non c'è soltanto Elettra Lamborghini, ma secondo me si può ballare anche con Elodie oppure con altri che hanno fatto canzoni, si può ballare persino con Junior Kelly. Ecco, allora, intanto ti chiedo subito se secondo te è un po' l'effetto Mahmood, cioè un tempo si diceva canzone sanremese e la canzone sanremese era il lento, la ballad, questa cosa adesso è cambiata, è effetto Mahmood o effetto dei tempi secondo te? Ma tutte e due, ovviamente il successo di Mahmood non si può sottovalutare, non si può trascurare, è anche vero che prima di Mahmood ha vinto Gabbani che non aveva una ballata, insomma è un po' l'effetto dei tempi, e oggettivamente se guardiamo anche le classifiche non ci sono tante ballate tipo quelle con le quali sono cresciuto io tantissimi anni fa, che diventano simboli di un'epoca, di una generazione. Adesso i pezzi che funzionano trovano, sono pezzi con un andamento non lento, ecco, diciamo così. Certo, quindi ci sono un sacco di pezzi che si ballano, tu hai citato subito Elodie e io la citerei per prima perché ha il testo scritto da Mahmood, la musica scritta da Dardust, e adesso ve lo dico, Dardust, che scopriremo insieme questo pomeriggio, e questo personaggio misterioso che sarà con noi nel nostro Radio Tube è proprio Dardust. Quindi due terzi del team che ha creato Soldi quest'anno ha fatto la canzone di Elodie, e quindi un po' un Mahmood in gonnella. Ma senz'altro, con un pezzo più, secondo me, più complesso dal punto di vista dell'arrangiamento, se ancora si può usare questa parola, è un pezzo un pochettino più meno ritmato, meno marziale nella scansione. C'è il clap, non ci sono queste... diciamo queste scansioni ritmiche, è un pezzo più urban, ma è il pezzo di Elodie, il suo upgrade, cioè Elodie è quella che fino adesso ha fatto featuring, ha avuto successo, ha fatto Margarita, è stato un tormentone, ma non ha finora incontrato una squadra compositiva come quella insomma di questo pezzo e del disco che è uscito, insomma, quindi che sta per uscire, quindi credo che Elodie sia candidata non a essere vincitrice del festival, perché secondo me è difficile, ma essere una che nei prossimi mesi ascolteremo spesso in radio, ascolteremo spesso comunque in giro. Eh sì, io vedo che tu l'hai messo tra i più sorprendenti, effettivamente in radio è uno dei pezzi che sentiremo di più, come, vabbè, non possiamo non citare Elettra Lamborghini, perché Elettra Lamborghini... Allora. Cosa diciamo del pezzo Marta, di Elettra Lamborghini? Allora, Elettra Lamborghini è, se lei sale sul palco la prima sera e si veste con un tailleur tipo veramente colazione da diciamo Tiffany. Diciamo che per ora nelle occasioni ha cambiato molto, look, cioè non è più leopardata ma è educanda. Esatto, se sale così... diventa una notizia. Se twerka sul palco agitando i glutei, non lo so, è un pezzo che non è così sorprendente. È anche vero che sicuramente noi lo ascolteremo almeno fino al 21 giugno, un momento in cui mi è vero, almeno finché non uscirà con un altro singolo che ascolteremo fino alla nausea nelle radio, sicuramente. Paolo, facciamo una brevissima pausa, viabilità, poi saremo ancora insieme perché dobbiamo parlare un po', insomma, di questi brani sanremesi e anche un pochino, non tantissimo, di Amadeus, perché ieri l'abbiamo incontrato, e in particolare ve lo dico dopo, ascolterete cosa ho avuto la faccia tosta di fare ieri con Amadeus, ma tra poco, viabilità. Radio Tube Social Village. Solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole. Lo so che sono anni che questa canzone non si usa più a Sanremo, ma a me è rimasta nel cuore. Per me è una canzone di quelle che bisognerebbe così usare ogni anno, perché Sanremo è Sanremo, lo diciamo sempre, perché Sanremo è Sanremo. Allora stiamo svelando un po' quello che ci sarà nelle canzoni del prossimo Sanremo 2020, che parte il 4 di febbraio, e come di consueto lo facciamo con un caro amico mio e di RadioTube, che è Paolo Giordano, critico musicale del giornale. Eccoci Paolo. Sì, eccoci qua. Allora, oggi il tuo pezzo iniziava con: se persino Michele Zarrillo ha alzato il ritmo, allora siamo davvero una svolta. Perché Michele Zarrillo e Rita Pavone, che in teoria sulla carta sarebbero più anziani, hanno fatto due robe da ballare proprio, cioè, ma scatenatissime. Sì, bisogna dire che non... Michele Zarrillo ha fatto un pezzo esattamente come quello che tutti un po' gli avevamo chiesto prima, cioè un pezzo che non fosse alla Michele Zarrillo, no? Quindi un pezzo certo, struggente, eccetera. E lo ha fatto, non so quanto il suo pubblico, sempre che ne abbia ancora un pubblico, diciamo, consistente, possa apprezzare questa svolta, però senz'altro è un modo di farsi vedere e di farsi ascoltare imprevisto. Nessuno se lo aspettava, uno Zarrillo movimentato come quello che abbiamo ascoltato ieri. Adesso ti faccio una domanda: e a te è piaciuto il brano? Zarrillo? Sai che sì. Nel senso che a me piacciono i brani, mi piacciono i brani che mi piacciono musicalmente, eccetera, sì, ma anche i brani che stupiscono, sì, perché è bello vedere qualcosa di inatteso sul palco. Sì, quindi lui che fa una cosa che a un certo punto davvero stupisce, dici vabbè, sì, ha osato, e secondo me c'è qualcosa di nuovo, di fresco. Poi non so se questo durerà a lungo, se è un pezzo che mi ricorderò e che canterò, però intanto c'è questo effetto sorpresa che a me piace molto. Senti, devo chiedere piaci Marta, come riesci a dire le cose, sei favolosa, cioè dovresti fare il portavoce di un ministro, secondo me. Ma no, ma è vero, dai, sono sincera, nel senso che magari non condivide esattamente parola per parola, quindi non è... Ecco. Cioè a me piace perché ha osato una cosa. Poi non sì, ti so dire, magari poi la sento la seconda, la terza, la quarta volta, diventa una delle sì, mie canzoni preferite, questo non lo so. Però sì, intanto posso dire promosso per la grinta, per il coraggio, ecco. Allora, no, ma voglio sapere dei giovani, nel senso non della categoria giovani, ma dei giovani tra i big, cioè Anastasio, che in tanti aspettano così al varco dopo X Factor, e Junior Calli, che invece in molti chiedono chi era costui. Posso dirti che sono due pezzi che vanno un po' di pari passo, quindi non rischiano un po' di annullarsi a vicenda? Uno è Rosso di rabbia in generale, l'altro è Arrabbiato, con però più un testo un po' più politico, anzi forse l'unico testo politico del festival. Sì, allora, senz'altro hanno molti punti in comune. Uno è la matrice rap, perché quella è la matrice alla quale entrambi si riconducono, e poi hanno le chitarre molto aggressive. C'è un momento in cui il brano di Anastasio, a me sono venuti in mente addirittura i Rage Against the Machine, che non sono proprio la cosa più leggera che abbiamo sentito in questi ultimi anni, e quindi hanno una condivisione, una vicinanza stilistica e testuale che oggettivamente potrebbe essere annullante. Potrebbe annullarli, insomma, reciprocamente, ma si riferiscono a due pubblici diversi, hanno due look diversi, che lo so che sembra ridicolo, ma è così. No, è vero, anche se non sappiamo se Junior Calli salirà sul palco con la maschera o meno. Secondo me Junior Calli farà una cosa molto simbolica, e cioè se arriva con la maschera se la toglie. E se la toglierà, se la toglie, come per dire, ok, qui iniziano, anche se lui già si è tolta l'agosto, ma comunque salirà con la maschera e simbolicamente dall'inizio alla propria nuova fase della carriera, quindi da questo punto di vista credo succederà così. Anastasio è, diciamo, facciamo così, per entrambi secondo me la differenza la farà la performance sul palco, perché il Junior Carli non lo so quanto possa essere corrispondente all'intensità del brano, perché lui è comunque uno poco esperto da questo punto di vista, è uno che si mette in gioco su un palco come quello dell'Ariston, che tutti possono giudicarlo, ma finché non ci sei stato sopra in diretta televisiva non puoi sapere che effetto fa su di te. L'anno scorso c'era una canzone che ci era piaciuta molto agli ascolti, poi alla prima performance ha un po' deluso e effettivamente... Ed è finita lì. E Anastasio invece è uno più agile da questo punto di vista, è un po' meno nel testo, ma anche nell'accentuazione, un po' meno incazzato, diciamo, un po' meno irruente, però io credo che dal vivo poi si scatenerà. Di certo loro condividono un punto in comune con un artista che avrebbe dovuto aprire il Festival di Sanremo lunedì sera, cioè Salmo, che invece pare che davamo non vada. Per certo fino a ieri, e invece ma lo davamo per certo fino a ieri, ma perché glielo ha ce lo ha detto Amadeus a Sanremo, quindi non, certo. Non è che ci cioè, siamo dettati e che adesso pare non venga, ma sia Junior Carli che Anastasio sono collegati direttamente, soprattutto Junior è collegato direttamente a Salmo, ecco, anche se Anastasio è più in fase fibra, diciamo così, in fase fibra, Fabri Fibra, però c'è tra di loro anche questo comune denominatore. Allora, ti chiedo, sì. Poi vabbè, hai detto incazzato Anastasio, ancora più incazzato rancore, rancore con un sociale, testo anche, esatto, con un testo che farà anche un po' discutere perché parla sì. dell'America in maniera anche abbastanza così intensa. Sì, ti chiedo invece, allora, tra i, secondo me, i quotati ancora sulla carta ovviamente, Giordana Angi, sì. Che ne dici? Ma Giovanna Angi è un pezzo, è un pezzo dedicato alla mamma, che se uno lo valuta sulla carta dice mamma mia, una ragazza a Sanremo che canta per la mamma è una delle cose più stucchevoli sulla carta che uno si possa immaginare. Invece lei ha un'interpretazione che mi ha estremamente convinto, è una che se è in serata, quella sera canta il brano con la sua intensità, secondo me strappa anche qualche lacrima di commozione, ed è, non credo candidata alla vittoria, ti dico la verità, ma sta nel suo range di artista femminile estremamente espressiva, estremamente capace di comunicare, non in grado di andare all'unione in classifica con un pezzo reggaeton, ma comunque capace di attirare attenzione. Ecco, a me è piaciuta dalla metà in avanti, perché non mi aspettavo una Giovanna Angi così quando l'abbiamo ascoltato ieri per la prima volta, non me l'aspettavo così, la trovo una sfida impegnativa la sua, è una sfida non facile, impegnativa perché nonostante abbia una fanbase importante, comunque un brano che non è immediato e comunque fa curriculum, come si dice, è un brano certo, che entra certo. nel repertorio senz'altro. Allora, vedo che anche tu hai apprezzato Bugo e Morgan tra le sorprese, addirittura l'aggettivo è entusiasmante, vedrete, qualcosa di... anch'io. Il mio hashtag per il Sanremo 2020 è hashtag Diodato Sposami. Perché? Non posso usarlo, ma lo condivido, perché comunque perché... Diodato ha un pezzone, ragazzi, un pezzone. Lì veramente emozione grande, emozione totale, soprattutto voce pazzesca, cioè la cosa che spesso non siamo più abituati a sottolineare è la qualità non solo dell'interpretazione ma anche della pasta vocale. Diodato ha una canzone difficile da cantare che lui canta in un modo entusiasmante, quindi anche se non ti piace la canzone non può non piacerti lui come canta. E quindi non Diodato sposami, ma Diodato stelfami. Vabbè, tu non puoi, non puoi. Esatto. No, se no puoi fare l'hashtag Diodato sposa la cagnola, che potrebbe comunque potrebbe, essere buono. No, veramente allora, è troppo, mi stai chiedendo troppo. Così è troppo. No, hai ragione. Ma poi il mio è un commento squisitamente musicale. Sì, però allora, ieri non ho potuto fare a meno poi di approcciare Amadeus. Sì. Ovviamente si doveva parlare solo di canzoni e non delle polemiche, non per una questione di censura, diciamo, al pubblico che pensa subito che ci sia sotto qualcosa, ma perché ieri era il giorno dedicato proprio alle canzoni. Ma secondo voi io ce l'ho fatta? Allora, ascoltiamo insieme questo mio incontro di ieri con Amadeus. Eccolo qua. Ah, ma allora, abbiamo sentito una fucilata di pezzi tutti diversi da uno dall'altro e tu li sai tutti a memoria, li balli tutti, vuol dire che c'è davvero passione per questi pezzi. Io ho una grande passione per questi pezzi, una grande passione per questo festival in generale. Lo faccio con una passione che ho coltivato da bambino ed è un sogno che si realizza, quindi quello che faccio lo faccio veramente con il cuore, assumendomi tutte le responsabilità, magari anche sbagliando, ma con assoluta, come si dice, onestà intellettuale. Quindi io questi 24 li ho ascoltati tante volte, ecco perché li so, perché li ho ascoltati veramente decine e decine e decine di volte, e sono 24 canzoni che io amo molto, quindi spero che piacciono al pubblico. Non hai smesso di ballare su quelle che si ballano, non hai smesso di emozionarti, sì, su quelle che ti fanno emozionare. Sì, e pensa che le ascolto tante volte, eppure sono alcune canzoni che mi emozionano moltissimo, mi fanno venire i brividi, e così come ce ne sono tante che è impossibile non ballare, perché non ho pensato alla canzone sanremese, cioè non ho detto bene, allora cosa può funzionare a Sanremo, non l'ho mai fatto neanche in un istante, anzi io ho pensato alla quotidianità, a quello che può funzionare domani mattina, che rimanga nel tempo il più lungo possibile, anche delle scommesse su personaggi che magari alcuni sono meno conosciuti di altri, ma questo è Sanremo, questo è il ruolo anche di un direttore artistico, un direttore musicale, fare, come dire, andare a scegliere delle cose che si augura, insomma, che rimangano il più a lungo possibile. Visto che siamo qua da soli, tra me e te, sì, devi farmi un regalo. Dimmi che sono bellissima. Tu sei bellissima. Allora, ogni donna è bellissima. Va bene. Ma io lo dirò tutta la vita. Oh. Non smetterò mai di dire a una donna sei bellissima. Io credo che per una donna sentirsi dire sei bellissima è una cosa. Perché bellissima non vuol dire solo avere gli occhi azzurri o avere il rossetto e essere bella. Tutta. Una donna è bella tutta, dentro e fuori. E io sono felice di dire a una donna sei bellissima e tu lo sei. Beh ragazzi, io mi sono fatta dire che sono bellissima, io sono a posto. Per me la polemica su Sanremo finisce qua, nel senso che io l'ho risolta in questo modo. Paolo, siamo in chiusura, ma ti devo girare la domanda di un ascoltatore, Mauro da Brescia, sì, che ci scrive al 349-238-6666. Secondo voi come si stabilisce chi ha avuto successo da quando la musica non si compra più? Credo che l'unico modo sia vedere chi fa alzare più persone dal divano per andare a un suo concerto. Da questo punto ha stravinto ultimo con una canzone che più sanremese non si può. E beh, però, sì, se guardiamo altri parametri, diciamo che invece Mahmood ha vinto anche in altro modo. Ma sì, diciamo che oggi i termini di valutazione di questo problema sono di più di prima, nel senso che una volta occupavi il disco e andavi al concerto, adesso ci sono tante fasce per poter valutare il successo e la popolarità di un artista. Senza dubbio i concerti, molto più dei dischi, perché i dischi, come sappiamo, purtroppo non vengono così acquistati come in passato, ma c'è anche posizione sui social, il consenso, il gradimento, quello che una volta negli anni 60 e 70 era l'indice di gradimento della televisione, e adesso si è sparso sugli artisti, che quindi ovviamente per vivere devono andare in tour, quindi tutti, fateci caso, si stanno assolutamente dedicando a decine, centinaia, migliaia di concerti, molto più di prima, perché devono guadagnare, perché devono campare, ma anche la capacità di avere un'empatia con il pubblico. Credo che questa sia la nuova frontiera una frontiera che a me non piace tanto, perché io preferivo la star lontana, nascosta per mesi o anche anni, che poi tornava a trovarmi con un disco che mi cambiava la vita, ecco. Vabbè, il nostro nostalgico Paolo Giordano, grazie per essere stato con noi. Tanto poi avremo il modo di parlare ancora tantissimo di Sanremo, e ne parleremo anche nella seconda ora con un co-conduttore molto particolare. Paolo, a prestissimo, grazie Paolo. Dai. Ciao. A presto, ciao. Allora, una breve pausa, poi saremo ancora insieme perché parliamo di Oscar in maniera molto particolare, tra poco. RadioTube Social Village. Ed eccoci ancora insieme con il nostro RadioTube Social Village, sempre qui in diretta da Vicenza Oro, con un sacco di cose bellissime. Sono proprio contenta di essere in mezzo a questi oggetti favolosi, splendenti, dorati. Vabbè, dai, qual è uno degli oggetti dorati più preziosi della storia e della geografia? Ovviamente la statuetta dell'Oscar. Anche qui vi faccio fare un salto indietro nel tempo. And the winner is Italy for Federico Fellini's 8.5. I am particularly happy to receive this fabulous award because it comes to me on the eve of my next picture. And I don't think that a director about to start his new job could wish for anything more stimulating and auspicious of this. I want you all to accept my deepest and more humble thanks. Arrivederci e buona fortuna. Incredibile, perché io non lo sapevo, si suonava l'inno nazionale del paese che vinceva l'Oscar per il miglior film in lingua non inglese, il migliore film straniero, come si dice comunemente, l'Italia agli Oscar. Questo era Federico Fellini. Vorrei subito un commento su questo Federico Fellini, su questo discorso. Era Julie Andrews che gli consegnava l'Oscar, che diceva "The winner is", a uno dei critici italiani più importanti. Io sono molto molto molto contenta di dargli il bentornato a RadioTube, Steve Della Casa. Ciao Steve. Buongiorno, ciao a tutti. Che impressione ti ha fatto questo Fellini? Un po' preparato? Un po' preparato. Se l'è studiato a memoria, anche perché lui, come si è visto, non padroneggiava tantissimo la lingua di Albione, e quindi ovviamente si è fatto scrivere ogni dettaglio, anche perché, come dice appunto uno dei suoi migliori amici, che è anche un giornalista che ha seguito tante volte gli Oscar, cioè Vincenzo Mollica, Federico Fellini è una sorta di folletto che quando parla cerca sempre di evitare qualsiasi cosa che possa sembrare sgradevole. Quindi l'idea di farsi scrivere il discorso e di smussare ogni angolo e fare in maniera che tutti potessero essere soddisfatti fa esattamente scopa con quella che era la maniera di pensare di Federico Fellini. Allora, perché abbiamo cominciato con questo audio? Per due ragioni. Uno, perché si sta per festeggiare il centenario di Fellini, ci sono un sacco di bellissime iniziative, non solo a Rimini, in giro per l'Italia. Andate a cercare un po', a curiosare, perché ci sono davvero tante belle occasioni per ricordare Federico Fellini, ma anche per parlare dell'Italia agli Oscar. L'Italia agli Oscar, racconto di un cronista, è proprio un racconto che ha raccolto Steve Della Casa per le Luce Cinecittà Edizioni Sabine. Steve, chi è questo cronista? questo cronista è già citato Vincenzo Bollica, e credo che nessuno più di lui possa avvalersi di questa definizione, perché lui dice: io non sono un critico, io sono un cronista impressionista e impressionabile. Sono un cronista quindi che racconta le impressioni e che si fa anche molto impressionare da quello che avviene. E forse proprio per questo chi ha studiato letteratura si ricorda di Giovanni Pascoli, no? Che diceva che c'è un fanciullino dentro di noi che quando viene fuori esce fuori il nostro poeta. Ecco, diciamo che Vincenzo Mollica ha esattamente questa impostazione, si stupisce lui, si entusiasma lui e quindi trasmette il suo entusiasmo nelle cronache, che infatti sono uniche, irripetibili e fantastiche. Sì, devo dire che l'amore per Vincenzo Mollica si è visto tantissimo negli ultimi anni, e soprattutto il fatto che la RAI abbia dovuto rimandargli la pensione a furor di popolo, perché altrimenti sarebbe andato in pensione prima di Sanremo, e davvero a furor di popolo il povero Vincenzo non può andare ancora in pensione perché deve farsi un altro Sanremo. Ma quanto è affascinante seguire gli Oscar e quanto è affascinante raccogliere le esperienze di un cronista di ieri e di oggi, forse un tempo era più affascinante ancora questo lavoro? Allora, gli Oscar, come dice sempre Vincenzo in questo libro, che devo dire, diciamo ai nostri ascoltatori, è un libro molto divertente, non è, lo dico perché in realtà sono le parole sue, il libro è suo, non è mio, quindi posso dirlo, è veramente un libro divertente che in certi punti fa anche veramente morire da ridere. Allora, il racconto degli Oscar di Vincenzo è il racconto, lui dice, di una liturgia, dice ci sono le cattedrali, immaginiamoci una cattedrale, l'altare maggiore sono gli Oscar, poi ci sono gli altari laterali, quelli votivi, quelli più piccoli che sono, che so, Venezia, Cannes, Berlino, ma il vero premio, il premio sono le cappellette, quelle minori. Esatto. E invece l'altare, quello maggiore dove si fa la messa solenne, quello è gli Oscar. Infatti è vero, perché se ci pensiamo l'Oscar è l'unico premio che è in grado di cambiare la vita a chi lo vince, cioè se uno ha vinto l'Oscar, diciamo, ragionevolmente non sarà mai ridotto male nel resto della sua vita, perché qualcosa da fare la troverà sempre, cioè è il premio dei premi, è il riconoscimento, anche perché è un riconoscimento, ricordiamoci, che non viene dalla critica, viene dall'industria, cioè chi vota gli Oscar sono i professionisti del cinema, i registi, i produttori e i direttori della fotografia, cioè quelli che il cinema lo fanno, quindi è un premio che vale veramente tantissimo, perché è dato da gente che il mestiere lo conosce. Come se ti premiano loro vuol dire che riconoscono che tu sei un'eccellenza, e proprio per questo il suo racconto è sempre molto bello. Naturalmente i suoi racconti più in là sono nel tempo più sono affascinanti, perché lui, diciamo, va all'Oscar a partire da quando Tornatore vince per Nuovo Cinema Paradiso, cioè fino agli anni '80, però in realtà è come se ci fosse nato anche prima, perché era il miglior amico di Federico Fellini. Federico Fellini, primo Oscar, lo vince nel 56, e quindi di conseguenza ha tantissimi ricordi del relato, come si dice, cioè gli ha raccontati Fellini con i dettagli e lui li racconta. E quindi la storia degli Oscar è questa, è la storia di un cronista che li racconta sempre con grande entusiasmo, quelli ai quali ha partecipato e quelli ai quali invece si è dovuto basare sui racconti, e racconta per appunto tutto questo sembra lo sguardo di un bambino che vede una cosa stupenda e che ha lo stupore, si diverte e quindi lo corre subito a raccontarli ai suoi amici. Questo è lo spirito con cui Vincenzo racconta gli Oscar. E posso dire che lui è davvero così, perché è un personaggio straordinario. Ma vorrei chiederti, un critico come te di grande esperienza, grande valore, scrivendo questo libro e raccogliendo le testimonianze di Vincenzo Mollica, confrontandosi con lui, un critico come te riesce ancora a imparare qualcosa da questa esperienza? Mamma mia, impari tantissimo, impari intanto che, insomma, questo un pochettino credo l'avevo già capito, ma questo incontro me l'ha confermato ancora di più, che bisogna affrontare questo mestiere, che è uno dei più belli del mondo, senza nessuna alterigia, senza nessuna arroganza. Bisogna capire che, diciamo, il vero critico è quello che se al bar che beve un caffè arriva uno e dice cosa c'è da vedere al cinema, gli sa rispondere in un linguaggio che sia comprensibile. Se comincia a dire no, perché allora la metafisica del soggetto non corrisponde a quanto nell'espressionismo degli anni 20 si diceva, cioè bisogna riuscire a parlare in maniera molto terra a terra, bisogna saper raccontare delle emozioni, cioè alla gente non interessa tanto sapere se a te il film è piaciuto o meno, alla gente interessa sapere se tu hai studiato cinema e sei preparato. Esatto. Diciamo che proprio vivono tranquillamente anche senza saperlo. Invece, e questo è proprio l'insegnamento che arriva da Vincenzo, bisogna c'era Norberto Bobbio, un grande filosofo, ho avuto l'onore di partecipare a qualche sua lezione quando faceva l'università, che in piemontese lui diceva sempre esagerumanen, cioè non esageriamo, non diciamo parole troppo grosse, troppo difficili, e quindi se lo diceva lui posso permettermi anche di dirlo tanti anni dopo io. Allora, io ricordo L'Italia agli Oscar, Racconto di un cronista, ma c'è anche il sottotitolo in inglese, Italy at the Oscars, A Journalist's Tale, perché è un libro internazionale, mica siamo qua a fare le robe tra di noi, eh? Un racconto di Vincenzo Mollica a cura di Steve Della Casa. Grazie Steve per essere stato con noi. Grazie a voi. Io l'ho appena iniziato e mi sto divertendo come una pazza, non vedo l'ora di arrivare al capitolo su orgoglio e civetterie. Quello mi incuriosisce molto e lo scoprirò alla fine. Grazie Steve, a presto, grazie per essere stato con noi. Ciao. Allora, viabilità, perché sono le 16.45, poi come vi ho promesso andiamo alla scoperta di un personaggio davvero molto particolare, però un personaggio importantissimo, tra poco. Radio Tube Social Village. Allora, avete sentito che stiamo parlando di musica molto particolare, perché abbiamo parlato nella prima mezz'ora del nostro RadioTube di pop, della musica che tutti ascoltiamo alla radio, ma c'è tutto un altro mondo musicale che è quello di una musica, possiamo dire, più elettronica, anche in un certo senso più raffinata, che è davvero da scoprire, e ci sono degli autori italiani che sono molto amati all'estero. Allora, in questo momento in Italia c'è un produttore e musicista che incarna le due cose insieme, cioè è un produttore di musica elettronica estremamente amato all'estero, tanto che farà una tournée, una vera tournée europea nei prossimi mesi, ma è anche una delle menti dietro al pop di oggi. Allora, l'abbiamo citato poco fa, quest'anno lui ha firmato alcuni brani di Sanremo, ha firmato il brano di Elodie, ha firmato il brano degli Eugenio in Via di Gioia, ma insomma l'anno scorso ha vinto Sanremo con Soldi, e tutto questo con il suo nome vero, che è Dario Faini, ma con il suo nome d'arte, che è Dardast, ha questa diversa identità elettronica. Quindi lo abbiamo incontrato qualche giorno fa, perché con questo singolo Rücken Figur, che è uscito il 10 gennaio, ha anticipato il suo album, che è uscito ieri 17 gennaio, un album dal titolo un po' particolare, Sad Storm and Drugs. Quindi Storm and Drugs vi ricorderà qualcosa, ma lasciamo spiegare a lui il carattere e la personalità della sua musica. Lui è Dardust insieme a Dario Faini, ma come vanno d'accordo le due figure? Ecco qua, Dardust. Me lo immagino come il mio alter ego, come una sorta di esploratore magico, come una sorta di astronauta in cerca di nuovi territori, di nuovi prospettive, di nuovi pianeti da conquistare, diciamo così. E quindi è questo la tensione che guida la mia creatività, sicuramente. Perché tu hai una carriera come Dario Faini, autore, produttore, e quindi questa è una parte in cui metti una parte del tuo lavoro, la tua parte più vera, la tua creatività. Come decidi quando sei Dario e quando sei Dardust? Lo decido in maniera molto spontanea, dipende da quello che voglio fare. In verità queste due identità fanno spesso all'unisono, perché in entrambe le modalità scopro delle sfumature, dei colori che poi porto nell'altro mondo. Quindi diciamo che Dardust migliora Dario e Dario migliora Dardust, sempre. Esci con un singolo che anticipa un album, entrambi con dei titoli estremamente significativi. Mm-hmm. Partiamo da questo Rückenfigur. Che cos'è? Io ho googlato, ho tirato fuori il mio vecchio dizionario di tedesco. È una cosa molto particolare. Esatto, quando ho iniziato un po' a esplorare un concetto per questo album, mi è venuto in mente, sia per la situazione che stavo vivendo sul lato personale, privato, mi sono sentito come una sorta di tempesta, no? Quindi ho iniziato a cercare un immaginario creativo, artistico, che potesse un po' rappresentare quello che stavo vivendo, e fondamentalmente vivevo ero spaventato da quello che mi sta accadendo, ma allo stesso tempo c'era qualcosa di estatico, qualcosa di che mi portava con una catarsi a qualcosa di bello, quindi vivevo questa dualità. Poi tramite una ricerca ho capito che estasi e paura fanno parte del sublime, no? Di questo sentimento, il sublime che era il sentimento portante dello Sturm und Drang, questa corrente tedesca di fine Settecento che ha inaugurato il romanticismo, che quindi si è contrapposta ai principi razionali e l'illuminismo, e è andata oltre ponendo il sentimento in prima persona come esplorazione. E questo titolo, Rückenfigur, che tu hai pronunciato molto meglio di me, però sono proprio queste figure ritratte di spalle nei quadri di Caspar Friedrich, che è uno degli esponenti dello Sturm und Drang sul lato pittorico, e queste figure sono ritratte di spalle di fronte a questi tramonti, tempeste, eccetera, eccetera, e sono proprio poste di spalle per sperimentare questo senso del sublime. Quindi mentre lavoravo in questo disco mi sono sentito proprio come una figura in un quadro di Caspar Friedrich, ritratta di spalle di fronte alla mia tempesta. Quindi Rückenfigur sono io che sono lì per sperimentare il sublime. Però anche lo Sturm und Drang tu l'hai cambiato un po', eh? L'ho cambiato divertendomi un po' in una maniera un po' dissacratoria e forse irrispettosa, ma con grande ironia, e è diventato Storm and Drugs. La tempesta è rimasta in inglese, e drugs è un concetto, può essere il concetto più largo della dipendenza, può essere dipendenza affettiva, può significare mille cose. E l'acronimo di tutto ciò è SAD, che vuol dire triste. E mi sembrava un po' perfetto per com'ero in quel momento lì. Beh, quindi impetuoso, triste, dipendente, meno male che sublimi con la musica. Esatto. La sublimazione è, diciamo, l'aspetto fondamentale che ti aiuta a superare alcuni momenti della realtà, no? E anche non belli, e ti porta a dargli un valore diverso, ti può cambiare, può creare una versione migliore di te stesso, ti può fare attraversare delle tempeste e farti uscire in maniera migliorata, in maniera migliore, in maniera più matura, ecco, diciamo. Siccome drug significa anche medicina, a chi lo somministriamo questo disco? lo somministriamo a tutti quelli che fanno, che non amano vivere negli steccati, a tutti quelli che vogliono rompere degli schemi, a tutti quelli che fanno della fluidità e non della rigidità è un loro manifesto. Quindi bisogna andare oltre gli schemi e le etichette e capire che ci sono tante prospettive e territori nuovi dati dalla contaminazione di tante cose che sono interessanti e creano il futuro. Devo per forza chiedertelo, in queste date c'è un momento per scappare un attimo in Riviera ai primi di febbraio, visto che hai firmato anche quest'anno un bel po' di canzoni a Sanremo? Lo scorso è andata un filino bene. Sì, dai, diciamo che con Mahmood è successo quello che era inaspettato e in maniera, diciamo, stupefacente e meravigliosa. E diciamo, quest'anno sì, ci tornerò, non più come direttore d'orchestra, perché è una parentesi che non voglio, ho fatto, quindi voglio andare oltre. Sarò però dietro le quinte a fare da producer, a cercare di gestire tutto e far dare al massimo. Sarò un compagno di viaggio degli artisti con cui ho lavorato, diciamo. Break the chain of the nation. Questo era Dardust, che a Sanremo ha firmato per Elodie, per Rancore, per gli Eugenio in Via di Gioia. L'anno scorso ha vinto con Soldi e con Mahmood, e poi questo è il suo progetto elettronico. Allora, noi ci ritroviamo tra poco con RadioTube Social Village, GR24 delle 17, poi saremo ancora insieme.